Quello che mi piace di te è il tuo sapere di non sapere nulla. Non si può dire, tu sei diversa. Sei la mia vita, la mia bolla. Quello che mi piace di te, in nessun libro ho letto parole che sappiano somigliare ai tuoi occhi, al tuo leggere, il mio cuore. Quando ci si trova nel mezzo di una strada e sembra cascare il mondo, ecco proprio in questo momento scoppia il tuo mare, il tuo meraviglioso profondo. Sete straordinaria, il tempo con te è magia, la notte si inchina ai tuoi piedi e due stelle sono i tuoi seni. Sete straordinaria, ballano anche i tavoli e nei vasi i fiori. Sete extraordinaire, extraordinaire. Piace di te è la tua voglia di fare del sesso una preghiera, una benedizione, una carezza che arriva al soffitto, una catena di pianeti concatenati da nastri rossi, sorrisi infuocati, costellazioni di sguardi pronunciati, un oceano di oceani infiniti. Quando sembra allontanarsi ogni speranza e ci si trova a confrontarsi con l'assenza, ecco proprio in questo momento sento il tuo corpo, la tua presenza. Sete extraordinaire, il tempo con te è magia, la notte si inchina ai tuoi piedi e due stelle sono i tuoi seni. Sete straordinaria, ballano anche i tavoli e nei vasi i fiori. Sete straordinaria, extraordinaria. Sete straordinaria, il tempo con te è magia, la notte si inchina ai tuoi piedi e due stelle sono i tuoi seni. Sete straordinaria, ballano anche i tavoli e nei vasi i fiori. Sete straordinaria, extraordinaria.